Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il dibattito su come una città debba essere progettata, gestita e amministrata dura in realtà da millenni, praticamente da quando esistono le città. Ogni epoca ha le proprie problematiche e le proprie soluzioni o non soluzioni. Ma alcune di queste problematiche hanno segnato con particolare profondità la storia dei centri urbani. La questione dei rifiuti è certamente una di queste. Lorenzo Pinna, che è un noto giornalista, divulgatore scientifico, autore di tanti servizi di Quark e Super Quark e da sempre collaboratore di Piero Angela, ne parla in un libro molto affascinante che consiglio a tutti di leggere. Il libro di Bollati Boringhieri si intitola Autoritratto dell'immondizia, come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, ed ha per protagonista una città che solo da poco tempo non esiste più, salvo riemergere ogni tanto, la città pestilenziale. Diamo il benvenuto a Lorenzo Pinna. Buonasera Pinna. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei parte da un'ipotesi forte, il suo libro comincia così. Allora sì, il protagonista, io lo introduco subito nelle prime pagine, è appunto la città pestilenziale, che ha un significato molto preciso, è la città a demografia negativa. Ciò significa che le morti superano le nascite. E perché le morti superano le nascite? Proprio a causa dei rifiuti, cioè a causa della gestione dei rifiuti, anzi dell'assenza della gestione dei rifiuti, che nel passato, diciamo nei millenni passati, era soprattutto legata ai rifiuti organici, alle fogne, cioè alle fogne che mancavano, sì, eccetera. C'è tutta una serie di malattie croniche, poi di epidemie catastrofiche, riducevano il numero della popolazione, quindi la città non aveva solo bisogno di cibo dalle campagne, aveva bisogno anche di persone dalle campagne per non scomparire. Per non scomparire. E questo, se da un lato ci dice molto delle condizioni igieniche della città, ci dice anche della forza della città. È talmente forte questo meccanismo attrattivo e creativo da riuscire persino a superare il fatto che la città in realtà fosse un luogo terribile nel quale vivere. E tra l'altro delle prime forme, per esempio anche in epoca medievale, di raccolta differenziata o di forme rudimentali di trattamenti dei rifiuti ci sono già allora, vero? Ci sono queste figure che hanno questi nomi. Per esempio ci sono questi che dà più l'idea, diciamo, dei nostri, che si chiamano gli stracivendoli, straccioli. Per esempio in Inghilterra c'era il rag and bone man, cioè che era l'uomo che raccoglieva le ossa e gli stracci, appunto. E poi c'erano appunto in Francia gli chiffonier, di nuovo, che si vedeva solo i stracci. Con alcuni dettagli che lei racconta nel libro, che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma è veramente terribili, no? Sulle cose che venivano fatte e come venivano utilizzate queste sostanze. Senta, poi a un certo punto questa roba dura per 2000 anni, forse anche di più, ma o giù di lì, insomma. Poi a un certo punto succede qualcosa, arriva la rivoluzione industriale e qui cambia tutto. Allora, sì, diciamo, la città pestilenziale è andata avanti, io la faccio partire dalla rivoluzione del Neolitico, da quando l'uomo è diventato agricoltore e sedentario. Poi arriva fino alla rivoluzione industriale. Paradossalmente l'inizio della rivoluzione industriale peggiora la situazione, perché fa arrivare, attrae verso le città, Londra tra il 1750 e il 1850 passa da 700.000 a 1,5 milioni di abitanti, cioè, e questi arrivano su una struttura medievale, antica, insomma, che peggiora quindi ancora di più la situazione. Vuol dire antica, vuol dire senza fogne, senza acquedotti adeguati. Diciamo così, la città è sempre quella, c'è molta più cacca in giro. Nell'Ottocento su queste città industriali si abbatte una nuova epidemia che era sconosciuta, per esempio, nel Medioevo, che è il colera. Il colera che colpisce Londra, colpisce Parigi, colpisce le città italiane, insomma è una specie di maledizione che appunto si ripeterà molte volte Però all'epoca, ecco, non si capiscono molto bene queste epidemie come funzionano. In compenso c'è una cosa che si sente benissimo, che è la puzza, nonostante i nasi di allora fossero molto addestrati, no? Esatto. E qui il primo grande progetto, che è di Londra, ha una storia molto curiosa, perché venne approvato dal Parlamento inglese a causa di una puzza tremenda che emetteva il Tamigi, e poi Westminster è proprio sul Tamigi, e quindi la sentivano in maniera tremenda. I nobili. E allora però l'odore, il miasma, veniva considerato come un precursore dell'epidemia, cioè come creasse delle particelle che poi. Quindi questi, oltre al fastidio della puzza, avevano anche il terrore di un'epidemia. Quindi approvarono in gran furia, cioè in 18 giorni, approvarono il progetto di questo grandissimo ingegnere che nessuno conosce, si chiama Joseph Bazalgette, che praticamente costruì la prima rete fognaria moderna nella Londra dal 1850 al 1860. Rete fognaria che va di pari passo anche con gli acquedotti, no? Perché sono questi i due grandi ingredienti che rendono, diciamo, intelligenti rispetto a quello che erano nel Medioevo le città. Esatto, infatti gli acquedotti già nella Londra vittoriana, diciamo, già qualche acquedotto c'era che però, non sapendo tutta la microbiologia, andavano magari a pescare l'acqua dove scaricavano le fonti. Sì, ecco. C'erano queste cose tremende. e quindi, però, diciamo, con Bazalgette, appunto, c'è la città moderna che è la città della rete, cioè la città della rete idrica in questo caso, cioè dell'acquedotto che porta l'acqua pulita che viene poi scaricata. E tutta quest'acqua spinge e fa funzionare le fogne, perché certo. Le fogne senza acquedotti non funzionano. Sono delle pozze stagnanti. Diciamo una cosa, intanto è sorprendente, almeno per chi si occupa di smart city come sottoscritto, osservare che, così come oggi le smart city nascono dalle reti informatiche, questo elemento di intelligenza sanitaria viene fuori ancora una volta da delle reti, le due reti fognaria e idrica che si aggiungono alla rete stradale che da sempre caratterizza, certo, diciamo, per definizione ogni città. E tra l'altro ci fu una città intelligente da questo punto di vista nell'antichità, fu forse unica, ed era Roma. Roma, sì, l'antica Roma per una serie di circostanze riuscì a costruire sia gli acquedotti, alla fine erano più di 11, certo, e sia tutto il sistema fognario della famosa Cloaca Massima, di tutti i cunicoli che poi convogliavano la Cloaca Massima, e che quindi da questo punto di vista fu una città straordinaria, che poi è stata eguagliata e poi superata solo dalla Londra e da tutte le altre città della che rivoluzione, però arrivano dopo 1800 ecco, anni, infatti quasi 2000 anni dopo. Quasi 2000 anni dopo, quindi è una cosa straordinaria. L'acqua naturalmente in una città di 1 milione di abitanti come era la Roma dell'impero era uno strumento di consenso, diciamo, non era solo una necessità, certo, una necessità, ma era uno strumento di consenso con le terme, faceva parte forse dei circenses del Panem, Aquam potremmo aggiungere e Circenses. Sì, esatto. Grazie Lorenzo Pinna. Grazie a voi. Appuntamento a domani.